nessuno ve l'ha mai raccontato. Allora, sono Chuck Bird, quello che ogni tanto salta dentro la programmazione di Rock FM per raccontarvi qualche fregnaccia sulla storia del rock and roll. Qualche passerottino mi ha scritto apprezzando moltissimo un paio di interventi che ho fatto nei giorni passati, quelli che parlavano di viaggi, di itinerari fuori dai normali circuiti turistici. Eh già, se bisogna viaggiare è necessario farlo con classe, magari inseguendo un sogno iniziato vedendo un bel film. Come quella vecchia pellicola, credo fosse del 1987, quella intitolata Baghdad Café. Ve la ricordate Jamin, la grassona tedesca che capitò per caso in quel diner in mezzo al nulla e cominciò a lavorarci? Ebbene, quel locale esiste davvero e si trova a Newberry Spring in California. Si chiamava Sidewinder Café, ma dopo le riprese l'insegna rimase quella del film. È uno di quei locali dove i cimeli raccolti in anni e anni di ininterrotta attività si accumulano uno sull'altro. Il posto non è frequentato da turisti. Ci vanno i camionisti e quei pochi automobilisti che alla Interstate preferiscono la magia della Route 66, la più famosa highway americana, e qualche biker che in sella alla sua Harley sta andando da qualche parte o che da quel posto sta ritornando con tutta tranquillità a casa. Che si mangia? Hamburger e patatine, naturalmente, serviti insieme a un sorriso da Andre, la proprietaria bionda e cotonata che da tanti anni sta dietro al bancone. E se volete fare come il vecchio Chucky Boy, insieme ti prenderai anche una bella tazza di caffè nero fumante. Assicuratevi di avere in tasca anche qualche moneta, perché al Baghdad Café, in un angolo, c'è ancora il jukebox, di quelli di una volta. Io l'ultima volta ci ho suonato un vecchio pezzo dei Guess Who, American Woman. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, say C, say A, M. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind.